Oggi, 19 febbraio, Yekatit 12 nel calendario etiope, ricorre l'84esimo anniversario del massacro di Addis Abeba, uno dei peggiori crimini mai compiuti dal Regno d'Italia nelle sue colonie. La vicenda, dopo decenni di oblio e sottovalutazione, è ormai abbastanza nota, anche grazie alla traduzione italiana della monografia di Ian Campbell, Il massacro di Addis Abeba, una vergogna italiana, pubblicata da Rizzoli nel 2018. Quella del colonialismo italiano è una storia atroce e vergognosa. Nel solo massacro di Addis Abeba, Ian Campbell stima che le vittime siano state 19.000. Indro Montanelli, che di quel periodo criminale e vergognoso è stato una delle tante comparse, fa bene intuire quale sia lo spirito di quell'epoca quando da soldato in Eritrea comprò una sposa. Una bambina di 12 anni che lui definisce un animaletto docile che puzzava di capra, ma era bella e i suoi superiori gli dicevano che aveva scelto bene. Ecco le risposte alle domande di Elvira Banotti, giornalista e attivista nata ad Addis Abeba e figlia, anche lei, del colonialismo italiano. Ha detto tranquillamente di aver avuto una sposa, diciamo, di 12 anni, e a 25 anni non si è peritato affatto di violentare una ragazza di 12 anni, dicendo: ma in Africa queste cose si fanno. Io vorrei chiedere a lui come intende normalmente i suoi rapporti con le donne, date queste due affermazioni. No, signora, guardi, sulla violenza nessuna violenza, perché le ragazze in Abissinia si sposano a 12 anni, lo non è questione. Lei. Quindi lui era un piano di consapevolezza dell'uomo, insomma, il rapporto con una bambina di 12 anni e il rapporto con una bambina di 12 anni. No, se lo facessi in Europa riterrebbe di violentare una bambina, vero? Sì, in Europa sì, ma ecco, lì no. Sì, appunto. Quale differenza crede che esiste dal punto di vista biologico o psicologico anche? No, guardi, dal punto di vista sposano del costume. A 12 anni, non è questione. A 12 anni sposano. Ma non è il matrimonio che lei intende a 12 anni in Africa. Guardi, io ho vissuto in Africa. Sì. Quindi il vostro era veramente il rapporto violento del colonialista che veniva lì e si impossessava della ragazza di 12 anni senza assolutamente, ma glielo garantisco, senza assolutamente tener conto di questo tipo di rapporto sul piano umano. Eravate i vincitori, cioè i militari che hanno fatto le stesse cose ovunque sono stati i vincitori, ovunque si sono presentati gli uomini, si sono presentati come dei militari. La storia è piena di queste situazioni, no? Signora, vogliamo, non so se lei vuole istruirmi no, un no, processo. No, no, a caso, guardi, ho soltanto voluto chiederle per inciso come lei intende, dopo le due interpretazioni, come intende i rapporti con le donne. Dipende da cosa ci si mette dentro, non è dipende, umano e dipende di anche da cosa le donne mettono dentro di noi, è tutto un gioco di specchi. Cioè le vede sempre la donna in questa funzione passiva di adulatrice oppure di compagna, così che compare e scompare dell'uomo, ma non l'ha mai vista in una funzione diretta, attiva e diversa. Questo è un po' il dramma degli uomini della sua generazione. Può darsi. Della mia generazione? Solo? Credo. Vabbè. Il collettivo Wu Ming, dalle pagine online di GIAP, ha restituito dignità alla memoria delle vittime innocenti del colonialismo italiano in 4 stupendi articoli che invitiamo a leggere e diffondere. Il 19 febbraio 1937, un fallito attentato contro il macellaio di Fetsan, ovvero il viceré d'Etiopia Rodolfo Graziani, uno dei più brutali, sadici criminali di guerra mai esistiti. Solo in Italia uno così, invece di finire in carcere o ammazzato, poteva continuare la carriera politica fino agli anni 50. Fa scatenare un'immane rappresaglia condotta non solo da militari e camicie nere, ma anche da operai, burocrati e impiegati coloniali. Prigionieri o semplici passanti, colpevoli soltanto di essere africani, vengono uccisi a bastonate, a badilate, oppure pugnalati, fucilati, impiccati, investiti con automezzi, bruciati nelle loro case. Dapprima ci si concentra sulla capitale, stretta dall'aviazione in un cerchio di fuoco, così che nessuno possa fuggire. Quindi si passa ai villaggi vicini e a quella parte del paese, non più di un terzo, che gli italiani controllavano davvero, nonostante le proclamazioni fasciste sulla conquista dell'Etiopia, e il ritorno dell'impero sui colli fatali di Roma. L'impero coloniale fascista ha un equilibrio precario, la totale impreparazione militare, la mancanza di conoscenza del territorio, il fatto che nelle campagne non ci siano soldati, ma povera gente scappata dalle miserie dell'Italia del Sud in cerca della terra promessa. Il tutto condito dalla retorica fascista fa sì che la violenza cieca e disumana raggiunga abissi di raro schifo. Campi di concentramento, torture, uccisione di donne e bambini. L'impero è stato questo. Centinaia di persone vengono arrestate e muoiono nei campi di detenzione di Danane e Nocra, dove Graziani ordina che abbiano minime quantità di acqua e di cibo. Circa 400 notabili e membri dell'elite locale vengono deportati in Italia, nella colonia penale dell'Asinara, e da qui smistati in altri luoghi di confino e prigionia. E qui inizia il racconto di Wu Ming. Ai primi di marzo del 1937, circa 187 alti esponenti della classe dirigente etiope vengono arrestati, insieme a 8 donne e 2 bambini, trasportati in aereo a Massawa e imbarcati sul piroscafo Toscana, diretto a Napoli. All'ultimo momento, però, la nave si dirige verso l'Asinara e i prigionieri vengono confinati nella colonia sanitaria marina. Non è la prima volta che sudditi coloniali vengono trasferiti in Italia con la forza. Fin dal 1889, ascari somali ed eritrei avevano conosciuto le carceri militari di Portici e Gaeta, mentre nei bagni penali di Procida e Nisida furono rinchiusi gruppi consistenti di civili. Con la guerra di Libia, 1911-12, la deportazione dalle colonie era aumentata in maniera esponenziale. Uno sparuto gruppo venne mandato sull'isola della Gorgona, nell'arcipelago toscano, l'unica di queste prigioni coloniali che non si trovi nel Mezzogiorno. I folli criminali e gli alienati della quarta sponda finivano nelle case dei matti di Palermo, Aversa, Barcellona, Pozzo di Gotto. Le donne venivano imprigionate nel carcere femminile di Trani, che ancora oggi svolge quella funzione. I minori finivano a Noto, altri a Siracusa, nel carcere borbonico, altri ancora alla rotonda di Tempio Pausania. All'Asinara, il 16 aprile, arriva un altro piroscafo, il Sardegna, con un ulteriore carico di 87 confinati. A questo punto la situazione diventa ingestibile. La colonia non può contenere tanta gente e le autorità decidono di smistare i gruppi. Tivoli, Avellino, Torre del Greco e 28 irriducibili, cui se ne aggiungeranno altri 7, vengono spediti a Longobucco, un paese annidato tra le montagne della Sila, dove gli abitanti, per qualche tempo, non faranno uscire i bambini di casa per paura che se li mangino i cannibali. Tra i confinati etiopi c'è pure il Dejak Mangashaubie, ex ambasciatore a Roma in rappresentanza del suo paese. Mangascià si lamenta di essere finito nel gruppo dei più cattivi. Scrive subito al prefetto, in italiano, sostenendo che non ha mai agito male, che ad Addis Abeba ha fatto atto di sottomissione al maresciallo Badoglio, nonostante avesse ai suoi ordini un esercito di 7.000 uomini, perché amavo l'Italia e in Italia mi fidavo. La lettera non sortisce l'effetto desiderato. Mangascià non viene trasferito, non subito almeno. Invece, dopo un anno, nel giugno del 1938, il prefetto chiede al ministro degli interni di mandarlo a Bocchigliero, un'ora di curve da Longobucco, non certo in una situazione migliore. Infatti il trasloco non è un premio per buona condotta, al contrario. Il motivo è che il Dejak avrebbe contratto relazioni con prostitute del luogo. Non sappiamo se l'accusa fosse fondata. Di certo c'è che nel febbraio del 39 Giuseppina Blaconà mette al mondo un bambino, subito soprannominato Univuriaddu, che non può proprio essere figlio di suo marito, Vincenzo Scigliano. Giuseppina non era una prostituta, si occupava delle pulizie delle stanze e di preparare i pasti per i confinati. Il lavoro gliel'aveva trovato proprio Vincenzo, che in Etiopia c'era stato a fare la guerra, e per questo, fin dai primi giorni, era stato incaricato di tenere i rapporti con quella gente strana. Lui che ci sapeva fare. Vincenzo comunque riconosce il figlio e gli dà il nome di suo padre, Michele Antonio. Forse lo fa per evitare guai alla moglie, visto che in Italia la legge parla chiaro. Il cittadino che intrattiene relazioni di indole coniugale con un suddito dell'Africa orientale italiana è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Intanto, il padre naturale del bambino, Mangashao Bie, viene spedito a Bocchigliero e quando gli alleati liberano la Calabria può finalmente tornare al suo paese. Da lì, a guerra finita, scrive a Giuseppina, chiede notizie del figlio, vorrebbe crescerlo in Etiopia, manda anche del denaro, ma la madre non sente ragioni. Michele Antonio cresce a Longobucco, diventa carbonaio e pastore, si sposa a 18 anni e nei primi anni 70 gli nascono due figli, Mangascià Vincenzo e Giuseppina. La sua vita cambia d'improvviso quando gli arriva la notizia, una lettera, un telegramma, una telefonata, che Mangashao Bie è morto e gli ha lasciato tutta l'eredità, perché nel frattempo ha avuto altri due figli, ma sono dei poco di buono e non meritano nulla. Michele Antonio si informa e pare che la cifra sia considerevole. Il padre è stato ministro, consigliere dell'imperatore, ha sposato una donna molto ricca, è rimasto vedovo, ha palazzi, terreni, tesori. Nel maggio 1963 Michele Antonio rinuncia alla cittadinanza italiana, prende quella etiope con il nome di Michael Mangashà e parte per Addis Abeba. I giornali dell'epoca colgono l'occasione per scrivere pezzi di colore, non mancando di ribadire quanto fosse dorato il confino degli etiopi a Longobucco. Sì, d'accordo, per loro faceva freddo e si ammalavano, ma prendevano 1.000 lire al mese di diaria. La gente era ospitale, le donne ben disposte. Cosa vuoi che siano 6 anni lontano da casa, senza potersi allontanare da un paese di 7.000 anime? A quanto dicono, Michele Antonio non è mai più tornato a Longobucco. E anche qui si favoleggia dei conti che avrebbe lasciato da pagare prima di sparire, del suo assassinio in Etiopia per mano di sicari pagati dai fratellastri, di gozzoviglie esotiche, testamenti annullati, povertà improvvisa. Dalle stalle alle stelle alle stalle. E via, stereotipando. Luigi Magni, reduce dal successo di Nell'anno del Signore, immaginò anche di girare un film su tutta la storia, per provare a raccontare attraverso quella l'aggressione fascista e le mascalzonate degli italiani in Etiopia. Alla fine non se ne fece nulla e di film italiani che raccontino le mascalzonate degli italiani in Africa non se ne girerà manco mezzo, almeno fino a Tempo di uccidere di Giuliano Montaldo, che è del 1989. Non a caso, uno dei film anticolonialisti più famosi e citati, La battaglia d'Algeri, è l'opera di un regista italiano, Gillo Pontecorvo, ma parla dei misfatti coloniali altrui, francesi nella fattispecie. Qui finisce questo spaccato delle imprese coloniali italiane. Chissà che l'idea di Gillo Pontecorvo di parlare dei misfatti coloniali altrui non sia stata una buona trovata, visto che nel 1981 il film Il leone del deserto, che racconta il fallimento e la violenza coloniale dell'Italia in Libia, fu censurato da Andreotti perché, accidenti, sembrava proprio che non ci facevamo una bella figura. Il film è disponibile dal 2009, si trova anche in rete. Vi mettiamo il link sotto, ma non lo dite a nessuno. Ma questa è quasi un'altra storia. Un saluto da Radio Antenna Migrante. Alla voce, Rosanna Salati. Alla parte tecnica, Tony Lyon. E alla parte editoriale, Giulio Escalona. Arrivederci alla prossima puntata.